giorno faticar, per chi nulla sa gradir, piove e vento sopportar, mangiar male e mal dormir. Voglio far il gentiluomo, e non voglio più servir, e non voglio più servir, no, no, no, no, no, no, non voglio più servir. Oh, che caro galantuomo, vuol star dentro con la bella, e ti ho far la sentinella, la sentinella, la sentinella. Voglio far il gentiluomo, e non voglio più servir, e non voglio più servir, no, no, no, no, no, no, non voglio più servir. Ma mi par che venga gente, ma mi par che venga gente, non mi voglio far sentire, non mi voglio far sentire, non mi voglio far sentire, no, no, no, no, no, no, mi voglio far sentire. Gridi chi son io, tu non saprai. Non nasce il chi son io, tu non saprai. Gente si pentonitore, taci e trema il mio furore. Scivenuto non si chiama. Taci e trema, come fuori sconsigliata, sconsigliata, veder che libertino, taci e trema, come furia di questa furia di sperma, mi portava e gente, questa furia di sperma, sta veder che libertino, mi farà precita, sta veder che libertino, mi farà precita, sta veder che libertino, mi farà precita, sta veder che libertino, mi farà precita. Lasciali degno, partirti meco, ma non mi degno di pugnar teco. Si pretendi da me fuggir, ma non mi degno, no, si pretendi. Thank you. ove sei? Son qui per mia disgrazia, e voi? Son qui. Chi è morto? Voi o il vecchio? Che domanda da bestia, il vecchio! Bravo! Tu impresi leggiadre, sforzar la figlia e t'ammazzar il padre. L'ha voluto suo danno. Madonna Anna, cosa ha voluto? Taci, non mi seccarvi e meco, se non vuoi qualche cosa ancor tu. Non ho nulla, signor, non parlo più. Tutto il mio sangue verserò se bisogna, ma dove il cielo roto finché son loco. Cercatemi, recatemi, qualche odor, qualche spirito, ma non tardate, donna. Lo giuro agli occhi tuoi. farò un momento. Fra cento fetti e cento, fammi un cento in cuore, fra cento fetti e cento, fammi un bacio. Cosa vuoi? L'affar di cui si tratta è importante. Lo credo. È importantissimo. Meglio ancora, finiscilo. Giurate di non andare in collera. Lo giuro sul mio onore, purché non parli del commendatore. Siamo soli, lo vedo. Nessun ci sente? Via! Vi posso dire tutto liberamente? Sì! Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate è da briccone! Temerario in tal guisa! Il giuramento! Non si parli di giuramento, taci, occhio! Non parlo più, non fiato, oh padron mio! Così saremo amici, orogli un poco, sai tu perché son qui? Non ne so nulla, ma essendo l'alba chiara, non sarebbe qualche nuova conquista. Io la devo saper per porla in lista. Va là che sei grand'uomo, sappi chi io sono, innamorato d'una bella dama, e son certo che mama, la vidi, le parlai, me qual casino questa notte verrà. E zitto mi pare sentire odor di femmina. Cospetto che odorato perfetto, all'aria mi par bella. E che occhio di gridiamoci un poco e scopriamo terreno. Ci ha prese fuoco. Cerchiam di consolare consolare il suo tormento, così ne consolò 1800. Bella donna Elvira. Don Giovanni, segui il mostro fenomeno d'inganni. Che titolo cruscanti, manco male che lo conosce bene. Via, cara donna Elvira, calmate quella collera. Sentite, lasciatemi parlare. Cosa puoi dire tua passion, signor? In casa mi entri furtivamente, a forza d'arte di giuramenti di lusinghi e rifi, a settore il colpino. Innamore o crudele, mi dichiari tua sposa, e poi mancando della terra il cielo sottotretto con enorme delitto, dopo due dì da purgo sta lontano, ma abbandoni mi fuggi e lascia in preda il rimorso. Un libro stampato. O in quanto a questo ebbi le mie ragioni. È vero, e che ragioni forti! E quali sono, se non la tua perfidia o l'eccellenza tua? Ma è giusto, cielo vuole, che io ti trovassi per fare su per mia vendette. E via, siate più ragionevole, mi pone a cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo. Salvo il vero. E via, dille un poco. E cosa devo dirle? Sì, sì, dille pur tutto. Ebbene, va presto. Madama, veramente, in questo mondo con ciò sia cosa, quando fosse che il quadro non è tondo. Sciagurato, così il mio dolor, gioco di prendi. A voi, stelle, l'inico fuggimmi, sarà dove, in qual ponte? E lasciate che vada, egli non merda che di lui ci pensiate. Luce l'arato, mia mamma, e consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete né la prima né l'ultima. Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo, ogni paese è testimon di sue donnesche imprese. Madamina, il catalogo è questo, delle belle che amo il padron mio, un catalogo gli è che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia su 140, in Germania 231, 100 in Francia e in Turchia 91, ma in Spagna, son già 1003. Van fra queste contadine, camerieri cittadine, van condesse baronesse, marchesane principesse, e van donne, donne grado, donne forma, donne età, donne forma, donne età. In Italia, 640, in Germania, 231, 100 in Francia, Turchia novantuna mamma, mamma in Spagna. Ma in Spagna son già 1003 Altre feste, contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, e vanno ogni donna, grana, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. Thank you. leggeri di testa, leggeri di testa. Non andate, girando di qua e là, e là, e qua e là. Un poco dura, dematti la festa, dematti la festa. Ma per me è cominciato, non ha cominciato, non ha. Chi piace, che piace, che sarà. Vieni, vieni, carina, contiamo. Cantiamo e balliamo, sogniamo. Vieni, vieni, carina, contiamo. Chi piace, che piace, che sarà. Manco male partita. Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne. Tra tante per mia fe, vi sarà qualche cosa anche per me. Cari amici, buongiorno, seguitate a stare allegramente, seguitate a suonar, oh buona gente, c'è qualche sposalizio? Sì, signore, e la sposa son io. Me ne consolo, lo sposo. Io per servirla. Oh, bravo, per servirmi, questo è vero parlar da galantuomo. Basta che sia marito. Oh, il mio masetto, il mondo d'ottimo cuore. Oh, anch'io, vedete, voglio che siamo amici. Il vostro nome? Zerbina. E il tuo? Masetto. Oh, caro il mio Masetto, e cara la mia Zerbina, t'esibisco la mia protezione. Il leporello, cosa fai il birbone? Anche io, caro padrone, esibisco la mia protezione. Presto, ma con costor, nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina cabbian, cioccolata, caffè, vini prosciutti, cerca di divertire tutti. Mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio Masetto. Hai capito? Ho capito. Andiamo, signore. Cosa c'è? La Zerbina senza me non può star. In vostro loco vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti. Oh, la Zerbina, mando un cavalier, ma pur fra poco ella mi coverrà. Va, non temere, nelle mani son io d'un cavaliere. E per questo? E per questo non c'è da dubitare. E Dio cospetto! Ora finiam le dispute, se subito senz'altro replicar non te ne vai. Masetto, guarda bene, ti pentirai. Ho capito, signo sì, signo sì. Il capo e mi nevo, già che piace a voi così, altre repliche non fa, no, no, no, no, no, no, non fa. Cavalier, voi siete già, dubitare un po' sua fe, me lo dice la bontà, e volete aver per me, aver per me, aver per me. Riconaccia, malandrina, fosse onor la mia ruina, fosse onor la mia ruina. Vengo, vengo. Resta, resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Briconaccia, malandrina, fosse onor la mia ruina, fosse onor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Alfin siam liberati, Zerlinetta gentil, da quel scioccone che le dite mio ben so far pulito. Signore, è mio marito. Chi colui? Vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifolcaccio vil sia strapazzato? Ma signore, io l'intieri parola di sposarlo. Tal parola non vale un zero. Voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi briconcelli, quei labbretti. occhi sì belli, quelle di tuccia candide odorose, parmi toccar giuncata e fiutar rose. Non vorrei. Che non vorreste? Al fine, ingannato restare. Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri. È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù non perdiam tempo, in quest'istante io vi voglio sposare. Voi? Certo io. Quel casinetto è mio, soli saremo, e la gioiello mio ci sposeremo. La ci darem la mano, la mi dirai di sì, vedi non è lontano, partiam ben mio da qui. Vorrei e non vorrei, mi trema un poco il cuore, felice ver sarei, ma può burlarmi ancor, ma può burlarmi ancor. Vieni, mio bel diletto, mi fa pietà, masetto, io cangerò tua sorte. Io voglio divertirmi. Divertirti? È vero, divertirti. Io so crudel come tutti i difetti. Ma signor cavaliere, è ver quel che la dice? La povera infelice è di me innamorata, e per pietà deggio fingere amore, ch'io son per mia disgrazia uom di buon cuore. Traditore si diverta d'opporsi ai miei piacevoli progressi. Vanno mal tutti quanti. Ancora è dolo mio, son vani pianti, di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni, mancava quest'intoppo. Signore, a tempo ve ne troviam, avete cuore, avete anima generosa. Sta a vedere che il diavolo le ha detto qualche cosa. Che domanda, perché? Bisogna piamo nella vostra amicizia. Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni, il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donna Anna, perché così piangete? Il crudele chi fu che osò la calma turbar del viver vostro? Ti ritrovo ancor per fido mostro. Non ti fidaro, misero, e quel riballo qua mi già tenete paura di m'altra aspetto nobile, che dolce maestà, il suo allor le lagrime empiono di pietà. La povera ragazza e pazza, amici miei, lasciatemi con lei. E pazza, amici miei, forse si calmerà, forse si calmerà. Ma non credete al mondo. E pazza, non badate. A chi si crederà? È pazza. A chi si crederà? A chi si crederà? Si crederà. E perché ben vivo è certo modo di mio tormento. E ignorare il mio spirito pavento. Dentro l'alma gira e mi sento. Dentro l'alma gira e mi sento. Se non so come la far. Dopo l'aria di pazzia, il suo volto e il suo parlar. Se men vado, si potria qualche cosa sospettar. Quella pazzerella. Dunque quegli errori tu. Infelice. Venditore. Incominciato vita. Zitto, zitto, che la gente si raduna a noi intorno. Siate un poco più prudente, vi farete criticar. Un strano scelerato, o per tutta la prudenza. Sventurata, i passi suoi voglio seguir, non voglio che faccia un precipizio. Perdonate, bellissima donnanna, se servirvi possio, in mia casa v'aspetto. Amici, addio! Per niente soccorretemi, mio bene fate coraggio. Il sacro manto d'amicizia, ma come fu, narratemi lo strano avvenimento. Stella! padreggio di sinero, diritto capace un cavaliero, a di scoprire il vero ogni mezzo si cerchi. Io sento in petto e di sposa ed amico il dovere che mi parla, disingannarla voglio, o vendicarla. Io deccio ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate, con quale indifferenza se ne viene. O leporello mio, va tutto bene. Don Giovannino mio, va tutto male. Come va tutto male? Vado a casa, come voi m'ordinaste con tutta quella gente. Bravo! A forza di chiacchiere, di vezie e di bugie, ho imparato sì bene a star con voi, cerco di intrattenerli. Bravo! Dicomi le cose a Masetto per placarlo, per trargli tra i pensier la gelosia. Bravo, in coscienza mia! Faccio che bevano, e gli uomini e le donne, son già mezzi ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita a ber. In sul più bello, chi credete che capiti? Zerbina! Bravo, e con lei chi venne? Donna Elvira! Bravo, e disse di voi? Tutto quel mal che in bocca le venia! Bravo, bravo, in coscienza mia! E tu cosa facesti? Da qui! Ed ella? Seguì a gridare! E tu? Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fu dell'orto la trassi, e con belardi chiusa la porta a chiave, io di là mi cavai, e sulla via Zolletta la lasciai. Bravo, bravo, arci bravo, l'affar non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono queste contadinotte, le voglio divertir finché vien notte. Finché dal vino alta la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, tenga ancor quella cerca menar, tenga ancor quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza alcun ordine la danza sia, il minuetto di la follia, chi la levanna farei ballar, chi il minuetto farei ballar, chi la follia farei ballar, chi la levanna farei ballar. E io frattanto dall'altro canto, con questo quella uomo reggia, uomo reggia, uomo reggia. Alla mia vista dopo mattina una decina deve aumentar, alla mia vista una decina deve aumentar. Se trovi in piazza qualche ragazza, tenga for quella, cercamela. Alla mia vista dopo mattina una decina deve aumentar. Se trovi un ordine la fantasia, il minuetto di la follia, chi la levanna farei ballar. Alla mia vista dopo mattina una decina deve aumentar, una decina deve aumentar, una decina deve aumentar, deve aumentar, deve aumentar, devi, devi aumentar. Non mi toccar. Perché? Perché mi chiedi perfida. Il tutto sopportar dovrei d'una man infedele. Ma no, taci crudele. Io non merito da te tal trattamento. Come? Ben hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre in fronte a un villano d'onore questa marca d'infamia. Ah, se non fosse lo scandalo, vorrei. Ma se colpi o non ho, ma se da lui ingannata rimasi, e poi che temi, tranquilla di mia vita, non mi toccò la punta della dita. Non me lo credi, ingrato, vien qui, sfogati, amatami, fa tutto di me quel che ti piace. Ma poi, ma se tu mio, ma poi fa pace. Ti porti o bella secca la tua povera angelina, sarò qui come bellina, le tue poche odore. lascerò cavar gli occhi e le capre tue le mani e lieta poi saprò Guarda un po' come seppe questa striga sedurmi. Siamo pure i tibuliti testa. Sia preparato il tutto a una gran festa. Ah, Masetto, Masetto, odi la voce del monsù cavaliere. E ben che c'è? Verrà. Lascia che venga. Ah, se vi fossi un poco da fuggire. Di cosa temi? Per chi diventi pallida? Ah, capisco, capisco, picconcella, hai timor ch'io comprenda come tra voi passata la faccenda. Presto, presto, pria che venga, or mi vo da qualche lato. C'è una nicchia, qui c'è l'altro, cheto, cheto, mi mostra. Faccia dica quel che vuole. Giovane parole. Parla forte qui t'arresta. Che capriccio nella testa. Parla forte qui t'arresta. Capirò se mi fedele. E qual modo. Ma non lo fa. Capirò se mi fedele. Se mi fedele. In qual modo ancora la fa. Su, svegliatevi da bravi, su, coraggio, buona gente, vogliamo stare allegramente, vogliamo ridere e scherzar, alla stanza della danza conducete tutti quanti e da tutti in abbondanza rinfreschi fate dare, gran rinfreschi fate dare. Su, svegliatevi da bravi, voglio aprire la pesca, mia garbata. T'ho già vista, non scappar. Lasciatemi andar via. Non ho resta, gioia mia. Se pietà ne avete in cuore. Sì, mio ben, son tutto amore. Vieni un poco in questo loco. Fortunata io vivo far. Vieni un poco in questo loco. Fortunata io vivo far. Fortunata ti può fare, fortunata ti può fare. Masetto. Sì, Masetto. È chiuso là perché la bella tua gerlina non può la poverina più star senza di te, non può più star senza di te. Capisco, sì, signore. Adesso fate cuore, fate cuore. I suonatori udite, venite ormai con me. Sì, sì, facciamo un cuore. Sì, sì, facciamo un cuore. Venite ormai, venite ormai con me. Venite, venite ormai con me. Venite, venite ormai con me. Venite ormai con me. Venite ormai con me. Coraggio aver con vena, discaccio vita mia, la fanno di divan. Io quasi meraviglioso, nasce troppo in credo. Capivo che piano fosse, e piano fosse, maschere galanti, falle passare avanti, di che ci fanno onor. Al volto ed alla voce si scopre il traditore. Pss, pss, signore maschere. Signore maschere, cosa chiedete? Al ballo, se vi piace, vi invita il mio signor. Grazie di tanto onore, andiam, compagne belle. L'amico anche su quelle prova farà thank you. sposate vezzose ragazze e infrescatevi bel giovinotti. Tornerete a far presto le pazze, tornerete a scherzare a ballar, a scherzare a ballar. E il caffè, cioccolate, acerina, giudizio, sorbetti, confetti, acerina, giudizio. Troppo dolce comincia la cena, innamoro potria terminarsi, innamoro potria terminarsi. Se pur paga brillante zerrina, sua bontà, l'apricona fa festa. Se buttare c'è la sandrina, tocca pur che dicano la testa. L'apricona fa festa, tocca pur che dicano la testa. Venite pur avanti, vezzose mascherine. E aperto a tutti quanti, viva la libertà. Come on! Marcellina. Cenerata! Ora qui no, l'ho bellato, agitiamo giù la porta, giù la porta. Ecco il birbo che t'ho offesa, ma da me la pena avrà, la pena avrà. Muori di qua, cosa fatte, muori di qua, cosa fatte, muori di qua, cosa fatte. Non sperate, non sperate, l'empio crede con tal frode, con tal frode, con tal frode, mi nasconde l'empietà, l'empietà. Donna Elvia, sì, amico, donna Ottavio, sì, signore, ma credete, frode, frode, frode, frode. Tutto, tutto, già, tu. Sì. Matto fu per burlar, e di non burlo, e di non burlo, burlo, burlo, ma voglio andare. E mio buffone, senti mia mia, ma che sei matto, che sei matto, che sei matto, che sei matto, matto, matto. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ma che sei mazzi, ma che sei mazzi, ma che sei mazzi, ma che sei matto, matto, matto, matto. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, voglio andare, sì.

cacchio rido, rido, rido, rido, rido, rido, rido, rido, rido, rido, che abbiate un'anima di bronzo. Voilà che sei il gran gonzo, ascolta bene, quando costei qui viene tu corri ad abbracciarla, falle quattro carezze e fingi la voce mia, poi con bell'arte cerca di condurla in altra parte. Ma signore, non più repliche, e se poi mi conosce? Non ti conoscerà se tu non vuoi, zitto e lavati giudizio. Eccomi a voi, vediamo che farà. Che imbroglio! Vi credo potrò che i piatti miei abbia il vento per cor, dolce pentito, lavato Don Giovanni, al suo dovere e all'amor mio ritorna. Sì, carina! Crudele, se sapeste quante lacrime, quante sospiri voi mi costate. Io, vita mia! Voi! Poverina! Quanto mi dispiace! Mi fuggerete più! No, muso bello! Sarrete sempre mio! Sempre! Carissimo! Carissima! La burla mi dà gusto! Mio tesoro! Mia venere! So che a voi tutta fuoco! Io tutto cenno! Il birbo si riscalda! E non mi gannerete! No, sicuro! Lo giuro a questa mano che bacio con trasporto e a quei begliumi. Sei morto! Oh, numi! Io! E par che la sorte mi secondi. Veggiamo! Le finestre son queste, ora cantiamo! Vieni alla finestra, o mio tesoro, te vieni a consolar il pianto mio. Se neghi a me di dar qualche ristoro, davanti agli occhi tuoi morir voglio. Tu c'hai la bocca dolce più del miele, tu che il zucchero porti in mezzo al cuore. Non essere gioia mia con me crudele, lasciati almen veder mio bell'amore. Veggenti alla finestra, forse d'essa. Pss, pss, pss, pss. Non ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovarlo dobbiamo. Qualcuno parla. Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova. Se non fallo è Masetto. Chi va là? Non risponde. Animo, schioppo al muso. Chi va là? Non è solo, ci vuol giudizio. Amico, non mi voglio scoprire. Sei tu Masetto? Appunto quello. E tu? Non mi conosci? Il servo son io di Don Giovanni. Leporello, servo di quell'indegno cavaliere. Certo, di quel briccone. Di quell'uomo senza onore. Dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costo per trucidarlo. Bagatelle, bravissimo Masetto. Anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone. Ma udite un po', qual è la mia intenzione? Metà di voi vi vadano, e gli altri vadano là, e pian pianin lo cerchino, lontan non via di qua, no, lontan e lontan non via di qua. Se un uomo e una ragazza passeggian per la piazza, se sotto una finestra fare all'amor sentite, ferite pur ferite, ferite pur ferite, il mio padron sarà. In testa gli ha un cappello con candidi pennacchi, addosso un gran mantello e spada al fianco e già, e spada al fianco e già, e spada al fianco e già, e spada al fianco e già, e spada al fianco e già. Se un uomo e una ragazza passeggian per la piazza, se sotto una finestra fare all'amor sentite, ferite, ferite, ferite pur ferite, ferite pur ferite, ferite, metà di voi vi vadano, e gli altri vadano là, e pian pianin lo cerchino, lontan non via di qua, no, lontan e lontan non via di qua. Andate, fate presto, andate, fate presto, fate presto, fate presto, fate presto, fate presto. Tu sol verrai con me, tu sol verrai con me, verrai con me, verrai con me. Noi far dobbiamo il resto, e già vedrai cos'è, cos'è, cos'è. Noi far dobbiamo il resto, e già vedrai cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è. Ottimo bene, dunque dobbiamo ucciderlo. Sicuro, e non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle. Non ho voglia ammazzarlo, vo farlo in 100 brani. Hai buone armi? Cospetto, opria questo moschetto e poi questa pistola. E poi? Non basta? E basta certo, or prendi questa per la pistola, questa per il moschetto. Ai ai, la testa mia! Taci o t'uccido, questo per ammazzarlo, questo per farli in brani. Villano mascalzone, c'è fu da cani. Ai ai, la testa mia! Ai ai, le spalle e il petto! Di sentire mi parve la voce di Vasetto. Oddio, Zerlina! Zerlina mia, soccorso! Ma cos'è stato? Lì di quel scellerato mi ruppe l'ossa e i nervi. Oh, poveretta me! Chi? Leporello, or qualche diavolo che somiglia a lui. Crudele! Monte il destino! Che con questa tua pazza gelosia ti ridoresti a qualche brutto passo! Dove ti duole? Qui. E poi? Qui. E ancora qui. E poi non ti duole altro? Duolmi un poco questo piede, questo braccio e questa mano. Via, via, non è gran mal, se il resto è sano. Vientene meco a casa, purché tu mi prometta ed essere mentiroso. Io ti guarirò, caro il mio sposo. Molte facil lume s'avvicina, oh mio ben, stiamo qui un poco finché da noi si scosta. Oh, che temi, adorato mio sposo? Nulla, nulla, certi riguardi io vo' veder, si lumi e c'allontano. Ma come da costei liberarmi? Rimanti, anima bella. Thank you. lasciatemi, per carità, per carità, per carità. Che problema? Ma voi signore, non dico niente, c'è certo timore, certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta, il muro, io me ne vo da flando, poi mi gelando, l'affar si sa, oh, si sa. Ma io sapeva fuggia per qua. Ferma, perfido, ferma! Il birbo all'aria ai piedi. Con quell'arte si sottrasse benissimo. Amici miei, dopo eccessi sì enormi, dubitar non possiam che Don Giovanni non sia l'empio uccisore del padre di Don Anna. In questa casa per poche ore fermatemi, un ricorso va fare a chi si deve, e in pochi istanti vendicarvi prometto. Così vuole l'aver pietà d'affetto. Tesoro intanto andate a consolare, e del bel ciglio il pianto cercate di asciugare, non ci ho voglio tornare. buona, or lasciala cercare. Che bella notte è più chiara del giorno, sembra fatta per gire a zonzo a caccia di ragazze. È tardi, o ancor non son le due della notte, avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar fra Leporello e Donna Elvira, se gli ha avuto giudizio. Al fin vuole che io faccia un precipizio. Ed esso, oh Leporello, chi mi chiama? Non conosci il padron? Così non il conoscessi. Come Birbo? Ah, siete voi, scusate. Cos'è stato? Per cacion vostra io fui quasi accoppato. Ebben non era questo un onore per te? Signor Veldono. Via via, vien qua, vien qua. Che belle cose ti deggio dir. Ma cosa fate qua? Vien dentro e lo saprai. Di tante storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta. Or la più bella ti vo solo narrar. Non esca il certo. C'è dubbio? Una fanciulla, bella giovin galante, per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, ella mi piglia, sai per chi? Non lo so. Per Leporello. Per me? Per te. Va bene. Per la mano essa allora mi prende. Ancora meglio. Ma carezza, ma braccia, caro il mio Leporello, Leporello mio caro. Allor m'accorsi che era qualche tua bella. Un maledetto. E l'inganno approfitto, non so come mi riconosce, grida. Sento gente, a fuggire mi metto, e pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto. E mi dite la cosa con tanta indifferenza? E perché no? Ma se fosse costei stata mia moglie? Meglio ancora! Parlato. Ah, qualche anima sarà per l'altro mondo che vi conosce a fondo. Taci sciocco! Chi va là? Chi va là? L'ho detto. Sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quell'iscrizione. Scusate, non ho imparato a leggere ai raggi della luna. Leggi, dico. Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta. Io tremo. Oh, vecchio buffonissimo, digli che questa sera l'attendo a cenar meco. Che pazzia, ma mi par, o dei mirate, che terribili occhiate il ci dà. Par vivo, par che senta, e che voglia parlar. Orso varà, o qui t'ammazzo, e poi ti seppellisco. Piano piano, signore, ora ubbidisco. Statua gentilissima del gran commendatore, padre, mi treme il cuore, non posso, non posso terminare. Finiscila, o nel petto ti metto questa ciar, ti metto questa ciar. Che piccio, che capriccio, che gusto, che spassetto, io sento mi gelar. Lo voglio far tremare, lo voglio gelar. O statua gentilissima, benché di marmo siate, a padron, padron mio, mirate, mirate, che segui a guardar, che segui a guardar. Fuori, fuori! No, no, no, attendete, attendete. Signor, il padron mio, badate ben, non io, vorria con voi cena, che gina è questa, che gina è questa, o c'è chi non la testa. Ma va che sei un buffone, ma va che sei un buffone, un buffone, un buffone. Guardate, guardate, guardate ancora padrone. E che deggio guardar, deggio guardar, deggio guardar. Con la marmoria testa, e fa così, così. Questo cuor, questa mano, che il mio tenero amor. Oddì, che dite, in ci tristi momenti? Perché vorresti con indugino valli a crescere le mie pene, crudele? Thank you. segua il suo passo, io vo con lei dividere i martiri, sarò me come in gravi i suoi sospiri. Parla schietto, mascalzone. Non mi lascia una flusione. Le parole proferir, le parole proferir. Mentre io mangio, fischia un poco. Non so far così. Scusate, scusate. Si eccellente il vostro cuoco. Si eccellente il vostro cuoco. E lo voglio anche provare. E lo voglio anche provare. Si eccellente il cuoco mio. Si eccellente. E lo voglio anche provare. Ultimo, ultimo. meraviglio. Cosa volete, cosa volete? Se non sorgete, non resti in piedi, non resti in piedi. Celeste, altro tu ascoltando ti sto. Lontano andò, lontano andò. Conservo me! Bene un colosso! Conservo me! Bene un colosso! Io non posso! se non posso, ma se non posso, ma se non posso, ma se non posso, ma se non posso. Resto bella, spiriti! Tra fumo e fuoco, sbadate un poco, gli uomo di sasso, fermati passo. Giusto, da sotto, diedi il gran botto, giusto là il diavolo, se il gran cucciolo. Però il vento, a trovar padron miglior. Presidente,